La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, 16:30 primi 26 secondi, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta qui agli studi di Milano di Radio 24. C'è un sole infernale fuori, sono 34 gradi, incredibile a dirsi, dopo i monsoni dei giorni scorsi. Andiamo subito a dirvi il tema di cui ci occupiamo oggi, chiedendovi esplicitamente di telefonarci all'800 24 0024 per le opinioni, lo sapete, 349 238 6666 per rispondere a una semplice ma immediata e diretta domanda. Ma voi, come elettori italiani, cittadini nel nostro paese, vorreste anche voi la possibilità di poter votare referendum come quello che si tiene in Gran Bretagna il 23, cioè dopodomani? Cioè vorreste in realtà referendum sulle materie che sono oggi vietate dalla Costituzione vigente e che rimarranno vietate anche dal nuovo testo della Costituzione qualora al referendum di ottobre venisse da voi confermato? Ricordo a tutti che i costituenti vollero credere che gli elettori, noi, quelli dell'epoca, ma restano tutti gli elettori, non fossero in grado di esprimere opinioni ragionevoli su alcune materie, quelle che riguardano le leggi di bilancio, quindi la spesa pubblica, i tributi, i trattati internazionali. E quindi queste materie sono vietate come referendum abrogativi, cioè decisionali, nel nostro paese. Perché la valutazione dei politici è stata quella secondo la quale gli elettori su queste materie decidono solo con la pancia, sono emotivi. È meglio che la democrazia sia rappresentativa, delegata, sono materie troppo complesse per poter lasciare alla scelta dei cittadini. Questo è il motivo vero per cui nella stragrande maggioranza dei paesi, dei 28 paesi che attualmente compongono l'Unione Europea, in cui si sono tenuti moltissimi referendum stadio per stadio del diverso avanzamento nel tempo dell'idea di Europa, dalla CE all'Unione Europea e così via, poi con la nascita dell'euro e così via, nella praticamente stragrandissima maggioranza di questi paesi ci sono stati referendum decisionali e come su ciascuno di questi atti. Paesi che non sono entrati nell'euro, non sono entrati nell'Unione Europea perché così hanno deciso i loro elettori, paesi che hanno bocciato la Costituzione Europea come avvenne in Francia, come avvenne in Olanda, paesi come la Gran Bretagna che nel 75, dopo tre anni che facevano parte di quella che allora era la Comunità Economica Europea, decisero in un referendum di restarci. Quel referendum del 75 era stato richiesto da un governo laburista e convocato da un governo laburista, e con il 63% dei voti i britannici dissero sì, restiamo. Ecco, tutti i paesi che sono poi entrati nell'Est Europa ci sono stati referendum che sono entrati nell'Unione Europea. Noi soli abbiamo fatto una specie di finto referendum consultivo molti anni fa sul rafforzamento del potere del Parlamento Europeo, ma insomma non abbiamo mai avuto referendum di questo tipo. In questi giorni personalità come Sergio Romano, ieri sul Corriere rispondendo alla sua rubrica al Corriere della Sera, ha ripetuto di considerare saggissima la scelta dei costituenti italiani, perché quelle materie devono continuare a non poter costituire oggetto di un referendum decisionale dal basso, perché sono materie complesse, ha detto. È meglio in un paese di democrazia delegata che siano i delegati, cioè i politici, a valutare bene la spesa, le tasse, i trattati internazionali. La stessa cosa la settimana scorsa aveva detto Mario Monti, intervistato sulla Stampa, dicendo che il referendum britannico è due volte sciagurato. Il primo è perché convocato dal premier britannico Cameron per ragioni di politica interna, perché promesso agli elettori nel 2013 per poter vincere in qualche modo le elezioni che poi ha vinto nel 2015, ma convocato per ragioni di leadership interna, e gli è andata malino, diceva sogghignando Monti, perché in realtà si trova i Tories, il suo partito spaccato, con 5 ministri del suo governo a favore del Leave, dell'uscita dall'Unione Europea, e 53 parlamentari dei Tories che sono favorevoli anch'essi all'uscita, e si trova con 9 su 20 dei componenti, per esempio, del Economic Advisory Board del premier britannico Cameron, che invece guida la campagna per Remain In, per restare nell'Unione Europea, che non hanno firmato l'appello per restare nell'Unione Europea. Ma oltre a questo, diceva Mario Monti, in realtà questo referendum è sciagurato perché manda per aria 20 anni di tessuto e di ordito, di tela e di ordito europeo. Io sono contrarissimo a queste opinioni. Contrarissimo, perché la mia opinione è che i populisti, i nazionalisti, gli autarchici, che non mi piacciono, io non condivido le loro tesi, però ci sono sempre stati. Il problema è se chi avversa le loro tesi, se chi crede nell'unione dei mercati più grandi, in regole comuni, in monete comuni, però anche nella convergenza dell'economia, perché in realtà l'edificio istituzionale europeo e l'euro sono pieni di difetti, ecco, però se chi crede in questo le vuole difendere deve avere buoni argomenti per convincere gli elettori. Se non ce l'ha, non può dire che è meglio vietare il referendum. Questa è la mia opinione. A chi poi fa notare che nell'emotività prevale, faccio notare che la Svizzera, a furia di votare dal basso decine e decine di argomenti, farle decidere ai cittadini 3, 4, 5, 6, 7 volte l'anno, si vede che la gente vota con grandissima intelligenza e saggezza. Hanno appena respinto il reddito minimo di 2.500 franchi svizzeri al mese, di 2.200 rotti euro, come si vede votano con la testa, con il portafoglio, non solo con la pancia. Quindi io non credo a questo argomento, però diteci come la pensate voi. Io nel frattempo abbiamo un ospite, adesso chiediamo anche come la pensa lui. Nel frattempo vi do gli ultimi aggiornamenti del giorno, delle cronache della campagna referendaria nel Regno Unito. Sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, il risultato è atteso per le prime ore della mattinata del venerdì. Non ci saranno exit poll ufficiali, quindi bisogna aspettare, diciamo, un'ora che andrà dalle 6 alle 9 del mattino, bisognerà vedere. Le prime circoscrizioni, i primi seggi sono attesi già verso mezzanotte, però è un po' prima, addirittura dalle 11 in avanti, ma per un risultato complessivo che bisognerà aspettare, soprattutto se poi il risultato è testa a testa, bisogna aspettare le prime ore del mattino, quindi venerdì mattina lo sapremo di sicuro. Le novità di giornata di una campagna elettorale che è stata durissima, violentissima, con diciamo, parecchie palle raccontate di qua e di là, sia sulle stime esagerate su cosa capita alla Gran Bretagna se ne va, sia su argomenti iper infondati utilizzati sui manifesti 6x3 con ondate di immigrati dalla Siria che sbarcherebbero nel Regno Unito dalla Turchia. Capite che, insomma, dalla Turchia al Regno Unito non si vede come possano sbarcare. Ma ieri sera, per esempio, c'è stato un infortunio gravissimo di quello che è diventato il capo della campagna dell'IVA all'interno del governo Cameron, il ministro della giustizia, che pure è amico personale molto forte di David Cameron. Il segretario della giustizia è Michael Gove. Michael Gove è diventato durissimo in questa campagna elettorale, quasi non facesse parte del governo, e anzi molti dicono che in realtà è il vero candidato a succedere a Cameron se nel referendum Cameron perde, perché a quel punto dovrebbe dimettersi. E il ministro della giustizia ha detto: gli argomenti che sentiamo in questa campagna elettorale per rimanere nell'Europa mi hanno ricordato gli attacchi che i nazisti nel 1930 fecero ad Albert Einstein. Allora, è stata così dura e tosta questa dichiarazione estrema, del tutto inaspettata, da uno che è contro l'Europa, l'ho espressato, ma capite che dire che chi propone di rimanere in Europa è un nazista, che ce l'aveva con Einstein perché era ebreo, ecco, allora questa è una roba di fronte alla quale è stato costretto stamattina Michael Gove a dire sì, in effetti ho sbagliato, ma continuo a pensare che gli argomenti che dicono che ci saranno enormi conseguenze economiche per il Regno Unito se escono sono infondate. Dopodiché le cronache sono piene anche di molte cose di colore, lo dico dando per scontato che voi sappiate quello che è avvenuto la fine della settimana scorsa, cioè l'assassinio di Jo Cox, la parlamentare laburista britannica, che in effetti per 3 giorni ha fatto fermare la campagna elettorale, ha fatto tornare la tesi del Remain in vantaggio nei sondaggi. A quanto pare però questo effetto è finito e i sondaggi oggi dicono che c'è tornato un lieve vantaggio per l'uscita, ma bisogna vedere quanta gente va a votare e come vota poi la Gran Bretagna profonda, non la City. In Londra, ma ci sono alcuni particolari anche di colore, per esempio stamattina è stata vietata dall'autorità, dalla commissione elettorale che vigila sulla regolarità del rispetto delle regole prima del referendum e nel referendum, è stata vietata la distribuzione di 600 croissant che doveva avvenire alla stazione di King's Cross, e che il movimento di Rimaniamo in Europa, il Remain In, aveva pensato di prendere dal treno che arriva direttamente da Parigi la mattina presto per distribuirli in una manifestazione dicendo rimaniamo in Europa. Questa è l'autorità, l'Electoral Commission ha detto no, questa cosa viola le regole, non si può fare, l'hanno dovuta dare ai poveri. Dico, è una nota di colore, per così dire, comunque la durezza di questa campagna elettorale, gli argomenti anche molto grevi usati. Per esempio, per la prima volta abbiamo avuto un leader politico denunciato in Regno Unito, non è come da noi, in cui la politica si querela a vicenda, tutti vanno dai magistrati. Nigel Farage, il leader di UKIP, la forza più nazionalista, che è una spina nel fianco dei conservatori, perché era il primo partito alle ultime europee, ma comunque anche le ultime politiche del 2015, ha preso il 12,7% dei voti, è stato trascinato in tribunale, vedremo poi come verrà giudicato, per i manifesti di cui ha coperto un bel po' di città nel Regno Unito, appunto con una fiumana di turisti, di immigrati che sbarcano in Gran Bretagna, è stato querelato da uno degli esponenti della campagna avversa. Quindi una campagna durissima, gli stessi giornali britannici dicono, insomma, i toni non sono stati quelli duri ma corretti che si vedono nelle campagne elettorali. Ma il tema resta, votare o non votare, ed è la stessa domanda che io faccio a Marco Cubianchi di Panorama, che spesso invitiamo, anche e soprattutto perché oltre a quello che scrive su Panorama è l'animatore di questo sito True Numbers, che io vi invito sempre a consultare, perché è una miniera di numeri, poi ognuno ci sa le sue opinioni, però i numeri nudi e crudi con le fonti ufficiali su cui poi farsi le opinioni, non come capita nel dibattito politico italiano in cui i numeri ciascuno se li fa a modo suo. Ecco, grazie di essere con noi Marco Cubianchi, tu come la pensi? Meglio farli il referendum o meglio che siano vietati dalla Costituzione? No, sempre meglio farli, naturalmente. Ah, ecco. Sempre meglio farli. Il fatto che non si facciano, hai spiegato benissimo perché i padri costituenti non ce l'hanno permesso. Alcuni, attenzione, la maggior parte dei professori di diritto costituzionale direbbe che la mia è una spiegazione, non stanno in cielo né in terra. Sì, ma lasciamoli dire, diciamo. E guarda che però in realtà quando le persone vengono chiamate a esprimersi su questioni complesse non è mica vero che ragionano con la pancia, è una falsità. In genere le persone sono molto più intelligenti di quelli che pensano i politici. Tu hai fatto il caso della Svizzera, ma molti referendum italiani sono stati vinti o battuti usando la testa, altro che la pancia. Sì, naturalmente i politici, pensa alla RAI o al finanziamento dei partiti, li hanno bellamente elusi. No, ma infatti in tutto il mondo, diciamo, la politica pensa sempre di essere il migliore dei cittadini, ma in questa vicenda britannica, a me, Oscar, quello che fa veramente impressione e che nel caso di un referendum in Italia io voterei per uscire dall'Europa, quello che mi fa veramente impressione, mi lascia veramente a bocca aperta, è il disprezzo per la democrazia, in questo caso britannica, che hanno le strutture governative europee. Se tu vai a vedere le dichiarazioni contro la Gran Bretagna, cioè addirittura minacciose, oggi ce ne sono due di Juncker, oggi ce n'è una di Juncker che sarebbe veramente da denunciare, non so che cosa si possa fare, ma Juncker non si può permettere di minacciare i cittadini britannici con parole che non stanno quelle sì, non stanno né in cielo né in terra. Allora il fatto, questo disprezzo addirittura, che a volte addirittura cade nell'odio verso la democrazia delle strutture tecnocratiche, politiche, chiamiamole come vogliamo, europee, è quella cosa che mi convince che dall'Europa bisogna scappare a gambe levate il prima possibile. Dopodiché ragioniamo sulle conseguenze, ma questo odio verso la democrazia è pericolosissimo. Un paese che liberamente viene chiamato, i cittadini di un paese che liberamente vengono chiamati a esprimersi sulla propria adesione a un organismo internazionale qual è l'Unione Europea, ricordo tutti, è pleonastico, ma lo ricordo a me stesso che a Londra non ha l'euro, quindi si tratta solo di trattati commerciali, rapporti di libero scambio, eccetera, che vengano minacciati da Bruxelles è una cosa inaudita. Aggiungo che nel lavoro che abbiamo fatto su True Numbers noi abbiamo fatto il conto di tutti i referendum europei che si sono svolti in tutti i paesi europei e anche in paesi non europei, cioè in paesi che hanno votato e hanno deciso di non essere in Europa, ad esempio la Svizzera. Ecco, quello che viene fuori è una cosa che mi ha colpito molto. Allora, su 28 paesi europei, 11 non hanno mai votato in un referendum per aderire all'Europa. Poi ci sono stati dei referendum confermativi, cioè sono stati chiamati i cittadini a votare per chiedere, per esprimersi su abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male a entrare in Europa, diteci la vostra, quindi referendum confermativi. E poi ci sono stati referendum su argomenti specifici, no? Quindi ad esempio accettiamo l'Ucraina in Europa piuttosto che aderiamo all'ufficio unico del brevetto europeo, insomma referendum specifici. Ora, ti dico soltanto due dati perché i numeri sono clamorosi. Allora, due dati. Uno, l'Italia ha votato una sola volta nell'89 in un referendum consultivo per attribuire al Parlamento europeo un potere costituente. E la cosa incredibile è questa, sai qual è, credo che tu lo sappia, qual è l'unico paese europeo che non ha mai votato in un referendum per aderire all'Europa? Qual è l'unico paese europeo? Dillo, dillo. La Germania. Però io ogni volta devo fare osservare che la Germania offre ai suoi cittadini contribuenti una garanzia in cambio della quale non li ha mai fatti votare, cioè il fatto che per ogni eventuale euro in più che dovesse uscire dalle loro tasche, diverso dall'ordinaria amministrazione del bilancio europeo per la parte IVA e così via, ma per assistere questo o quel paese, come è capitato regolarmente in questi anni per i paesi sottoposti a programmi di aiuto vincolato, quindi la Grecia, il Portogallo, la Spagna e così via, il Parlamento deve esplicitamente votare. Quindi questa è una legge fondamentale tedesca che dice: non aggiriamo, cari contribuenti e cittadini tedeschi, la delega che ci avete dato, perché bisogna che altrimenti, per dare euro in più bisogna prendersi la responsabilità e c'è una maggioranza parlamentare. Noi questo non ce l'abbiamo, noi abbiamo le forze politiche che hanno bellamente votato tutti i singoli passi dello sviluppo dell'Unione Europea, dell'euro e il fiscal compact eccetera eccetera, e poi raccontano ai cittadini che non c'erano, se c'erano dormivano, non erano d'accordo. Un po' diverso, non ti pare? No, sono totalmente d'accordo. La cosa abbastanza paradossale è che è vero quello che tu dici assolutamente sulla Germania, però l'adesione all'Europa, io non sto mettendo in discussione il fatto che sia legittima o non sia legittima. È evidente che l'adesione della Germania all'Europa è legittima, così come è legittima l'adesione all'Europa di tutti i paesi che non hanno chiamato i loro cittadini a votare. Però è la stessa differenza che c'è tra un matrimonio combinato e un matrimonio nel quale vanno liberamente all'altare e dicono sì, no? Cioè, sono legittimi tutti e sono due. D'accordo, però sono d'accordo, perché Marco, l'Europa è fin dall'inizio un progetto di elitari, intellettuali, politici, i Delors e così via, che dicevano: se passiamo per le vie ordinarie non ci sarà mai. Perché la resistenza nazionale autarchica, effetto dei grandi conflitti che l'Europa ha regalato all'intero mondo con centinaia di milioni di vittime, è ancora troppo forte. Dobbiamo andare avanti noi. E l'idea era: facciamo addirittura la moneta prima della politica, poi la politica seguirà. Naturalmente non è stato così, non abbiamo fatto la moneta neanche unendo i mercati. Questo è il motivo per cui un unico tasso di interesse ha effetti asimmetrici nelle crisi, come ci siamo resi conto naturalmente dal 2008 e soprattutto dal 2011 in avanti. Aggiungo, è un po' singolare che molti europeisti, prendete nel lunghissimo, ma interessante, lunghissimo però, dibattito che c'è oggi nelle prime 5 pagine del Sole 24 Ore, in cui intervengono il governatore della Banca d'Italia Visco, il ministro Padoan, Romano Prodi e Mario Monti. Romano Prodi dice a un certo punto a Mario Monti: su, piantiamola di essere, la verità è che se se ne vanno ci fanno quasi un piacere i britannici, perché sono quelli che hanno sempre frenato, ed è la stessa ragione per cui io invece li voglio dentro, perché io difendo il modello britannico, e il modello britannico cioè di chi? Ma la Thatcher ha sempre detto: nell'Unione Europea ci conviene stare per il mercato unico, difendendo i nostri principi, quindi trattando durissimamente in nome dell'interesse nazionale britannico una lunghissima lista di esclusioni dalle regole comuni, e senza la moneta comune, perché noi abbiamo con la sterlina e le banche che abbiamo qua forza propria per farci una politica monetaria più adatta a noi per i fatti nostri. Secondo me quello è il modello più giusto per interpretare il no al superstato europeo. Ma come si vede, Romano Prodi oggi dice: insomma, se se ne vanno, ci consentono l'Unione Europea del superstato. Io il superstato non lo voglio, è europeo, ed ecco perché la mia ragione è opposta per sperare che i britannici invece restino, perché sono una sponda per chi la pensa come me, naturalmente in Italia minoritario. Allora andiamo al minuto di informazione sulle strade e poi torniamo. La versione di Oscar. Allora, diciamo, messaggi divisi in tre grandi categorie. La prima e la seconda sono quasi equivalenti, con una lievissima maggioranza di coloro che, con me e con Marco Cubianchi, che è il nostro ospite, vorrebbero votare anche su queste materie, che fossero, quindi decadesse l'articolo della Costituzione che ce lo proibisce, come sulla spesa pubblica e le tasse, però un numero di poco inferiore che invece dice no, diciamoci la verità, gli elettori di queste cose non capiscono un piffero, non capiscono nulla, è meglio che la politica valuti. Alcuni dicono persino le trivelle, ma che senso aveva quel referendum sulle trivelle? Era un referendum sì con il governo o no col governo. C'è anche una parte però, una parte molto minoritaria, ma c'è, di messaggi che dicono fuori dalle palle i britannici, e questo mi dà l'idea che un po' di ormai la pulsione nazionalista autarchica, io la chiamo così, è diventata molto forte anche, molto più presente nell'opinione pubblica italiana di quanto non fosse anni fa, questo non c'è dubbio. Sentiamo come la pensano invece alcuni di coloro che hanno telefonato. Cominciamo da Marco. Marco, lo sentiamo, ma lui vive, è italiano, va bene, ma lui vive e lavora nel Regno Unito, vero Marco? No, io lavoro e vivo in Svizzera. Ah, in Svizzera. E perché Svizzera. Mi avete messo da UK? Ah, hanno sbagliato a scrivermi. Allora, Marco, dalla Svizzera che ci dici? Sì. Allora, innanzitutto, bene, è assolutamente vero che qui le persone non votano con la pancia, soprattutto su tematiche importanti. Ecco. E anche quando ci chiedono di abbassare, si propongono di abbassare le tasse, si vota anche per non abbassare le tasse. Quindi è assolutamente, totalmente falso pensare che le persone votino con la pancia. Le persone votano di pancia quando non hanno strumenti democratici per esprimersi. E quindi quando non il governo, la politica non ascolta, allora le persone usano gli strumenti che hanno per dire che non sono d'accordo su qualcosa. Questo è quanto. E poi per quanto riguarda l'Europa, ovviamente, come ben sai, qui in Svizzera siamo assolutamente accerchiati e minacciati, ricattati continuamente dall'Europa. No, oltretutto informiamo i nostri ascoltatori che quando dicono è un dibattito, è uno dei temi del dibattito in Gran Bretagna, facciamo come la Svizzera che sta fuori, però ecco, la Svizzera ha oltre 150 accordi bilaterali sottoscritti con l'Unione Europea per diversi tipi di beni, servizi eccetera eccetera, di libertà di scambi, però ci ha messo decenni per trattare, molti di loro sono in trattativa continua, quindi cioè, non è così facile, non è che dalla mattina alla sera la Gran Bretagna avrà questa possibilità garantita. Tenete conto che l'articolo 50, la farraginosità dell'articolo 50 del trattato prevede che dopo il referendum, quando il governo britannico faccia formale proposta di uscita, a quel punto le guideline, le linee guida per la trattativa per l'uscita devono essere approvati dai 27 paesi membri all'unanimità nel Consiglio Europeo. Ci sono 2 anni per la trattativa protraibili. Poi ci deve essere un testo su cui è d'accordo il Regno Unito e a quel punto la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio Europeo, cioè almeno 20 paesi su 27 e almeno che rappresentino il 65% della popolazione restante dell'Unione Europea, e a quel punto, oltre a questo voto, ci vuole un voto anche a maggioranza del Parlamento Europeo. Il che non è però l'accordo, poi, che è tutto da costruire, sui rapporti bilaterali da mettere in piedi per la libertà delle persone, dei beni e dei servizi, cioè per arrivare al punto della Svizzera. Quindi la faccenda è complicata. Ci abbiamo un altro Marco collegato, vero Marco? Sì, buonasera Oscar, sono io Marco da UK. Ecco, esattamente, c'erano due Marchi e quindi non si capiva bene da quale paese. Tu dove vivi e lavori? Io vivo nello Staffordshire, West Midlands, metà strada tra Birmingham e Manchester. Uh-huh. Lavoro per JCB, per il loro progetto Ruspe. Uh-huh. JCB, azienda inglese, 6.000 dipendenti in UK, altri 6.000 mondo e così via. Ecco, io avevo scritto per sottoporvi un dettaglio che nel dibattito su Brexit non vedo per adesso da nessuno specificato. L'Inghilterra, il Regno Unito, ha 60 milioni di abitanti, più di 50 fuori da Londra, e l'identikit qui di chi voterà dentro o fuori è molto diverso da Londra. Non c'è dubbio. Cambia totalmente. Infatti. E non è perché sono, diciamo, un po' più ignorantotti o vanno di pancia. Pensano decisamente, fanno dei ragionamenti che sono assolutamente sensati, vanno proprio di economia anche abbastanza di fine insospettabilmente. Poi tra l'altro qui il fattore immigrazione è totalmente ininfluente. Esatto. L'immigrazione c'è, ma è ben vista, assolutamente, perché è qualificata e qualificante. E infatti questo è proprio il tema, cioè l'Inghilterra profonda, le Midlands e così via, al di fuori da Londra e dalla City, e al di fuori dalla Scozia, dove è ovvio che vincerà invece il Remain In, le dichiarazioni di oggi di Nicola Sturgeon, che è il capo del partito, diciamo, nazionalista indipendentista scozzese, ricordate tutti che il referendum ha avuto un esito importante per i nazionalisti che poi hanno stravinto rispetto ai laburisti e alle politiche, ma non è stato decisivo per la secessione. dimissione, per così dire, eppure ha lanciato lì una brutta, una bella botta propagandistica anche lei, dicendo stamattina ci sono 300.000 posti di lavoro a rischio se vince il referendum il Leave, perché la Scozia è molto compenetrata con imprese europee. Il tema sarà, come dice Marco Popò, quanti vanno a votare dell'Inghilterra profonda, e a quel punto di quanti punti, perché lì vince il Leave, a quel punto batte eventualmente il Remain In, ed è un punto su cui sarà decisiva la partecipazione al voto. Allora, c'erano tantissimi altri ascoltatori e a me non resta che dirvi che però il tempo è finito. Grazie a Marco Bianchi, anche domani mattina torneremo su questo punto con Attenti a Noi Due, con me Alessandro Milan, alle 8:15, e speriamo di darvi in diretta anche i risultati venerdì mattina. Intanto continuate con Radio 24.